proprio che non ci sia equità, non so se siete d'accordo anche voi. Il mondo intorno è una stupenda realtà e ne godiamo un po' tutti noi. Il fatto è che molti pensano che il caso ha fatto tutto ciò. Sono